Montefurro. Ah, Montefurro, non è che Valdetta. E dove abita Walter, dove c'è la casa Walter? Ci divertiamo allora. E infatti. Infatti costruiamo un dipolo, Giuseppe, un dipolo, 2 metri, com'è raggio, non ricordo, 2 metri per braccio, la buccia. 2,75. Braccio? Capo. Sì, è già. E io. È l'unica cosa già. Ma ok, questa antenna la metta più ammassa bene. Quindi può fare come ho fatto sul video, che mi ha messo un piatto, ma un tappo di come si chiama? Di baracchino forato, ma ha bloccato la ringhiera, poi ci va con l'antenna lì, ci va bene. Gappa. Io ce l'ho attaccata alla la porta finestra, c'è una piastra c'è sopra. Trovavo lì la cosa, l'ho attaccata lì. E l'altro ce lo vuoi vedere anche qua? Ciao Luca, ti ho salutato. C'ho la cosa, la 2000 turbo, cioè. Da un po' di tempo, dai. Dalla Sirio. E non ti ho sentito, vedo di tanto, mi infilo le mani, le tue compagne ce la febbre anche tu. Io è freddo, ci vedo la febbre, con il buio, con la compagnia, va. Mi fa mal di denti, sotto tutto. Caffa, non lo vedi fare, vada. Sì, vabbè, qui chi positivi, sì. Va bene. Arrivi bene qua, io male un ridico, quando arrivi così, arrivi così. Infatti come arrivino 2.10 arrivino 2.10, magari la macchina arrivino 2.10, non so, 2.15, non mi ricordo adesso. Perché mi ha parlato male il baracchino. Vabbè, avanti Giuseppe, riprendi. Sono tutti a Leoncino, Anto. Sempre, Santiago 8 è qua. Veglia. Ti puoi permettere un'antenna, ti fa un dipolo e lo metti sul tetto. No, non costa niente, nulla. Nulla, solo di niente, neanche un centesimo. Mettiti il filo di corrente, da 2,5, da 1,5 anche. Ma da 1,5 un po', 1,5. Poi fai due isolatori, fai un pezzo di c'è presente quel tubo che usano gli elettricisti, no? Quello per fare l'impianto esterno. Poi ti rifai due pezzettini, è facile costruirlo, dai. Ma io costruisco di un bar a che mesi. E avanti già, riprendi. Non sono la febbre, dai. Magari non lo sento mai, si addormenta. Non senti la mia voce calda, la frequenza. Cigliare il sonno. BRB. Sì, continuate, già stavo ascoltando. Chiappa, è presente, bravo, rilanciata. E lo santo. Chiappa. Non si è parato cosa, hanno le oggi. Non si è parato così. Non ha lavorato, cosa è? Ci ha fatto sta bene, dai. Ma cos'è quello, cioè, penso sia quello normale, classico, vero? Chiappa. Sì, perché adesso è uscito anche il coso, che è un preciso identico, però il BSX. Chiappa. Io sto usando un coso, un Intec 550 Power. E dove ce l'ho smontato quello? Esatto. Da 37,6, 37,7, da quelli sono qualche lineata di febbre, ma dovuta a qualche colpo d'aria. Qualche alterazione? Che potrebbe essere anche, come si dice, un'infiammazione, arrivi urinarie, queste cose qua. Infatti non faccio la pipì, faccio un bel gialla già. Qualche cosa, qualche cistite. Sto dicendo, quando fumavo, no? Lo stesso, io andavo a fare le urine sempre gialle, tipo, guarda, non tipo quasi una contra la Coca-Cola, ma limi. Sapevo, mi chiede Coca-Cola la diluisci, la fa un po' più chiara così. Io avevo sempre così, quando fumavo, adesso non più. L'urina deve essere limpida, bianca e limpida, essere cristallina. Andare io siccome ho preso col cuore assendendomi la roba perché la mano non ce la fa e quell'attimo ci sono quello lì la finestra stasera e c'era un po' di corrente ma fui minato tutto. Boh. A me lo stai dicendo, io c'ho un braccio, la spalla e il collo che non riesco a muovere. Comunque fate attenzione, questa infezione è molto brutta, mi ha preso proprio un dolore allo stomaco poco fa. Infatti mi sono fatto la camomilla e ogni tanto mi viene tipo come ti posso far capire, è come se praticamente c'è qualcuno dentro che con un ago me lo sta pungendo, mi ce la presente già una cosa del genere. Che dolore, guarda, mamma mia, mi ne fritti, mangio in bianco e i fritti lo stomaco lo fanno saltare. Infatti ne farò almeno una fruttinuta. Io amo le patatine fritte col ketchup, salsa rosa. La verità oggi, allora ieri ho mangiato tutto il giorno latte perché non ci scendeva altro, niente latte ci scendeva, pensa a tu. E poi io oggi stamattina al latte, beh quello sì, prendevi la pastiglia. E poi a mezzogiorno mi sono mangiato un piatto di pasta e una frittina impanata, fritta. Allora ne farò almeno. Frutta domani. Banane, che ballate. Brucio di stomaco, forse. No, brucio di stomaco no. Non è stato lo stomaco, ce l'avevo già. Come se non stessero pungendo. Ma l'altro giorno mi è venuta una doglia, ragazzi. Mamma mia. Un dolore. Mi sono piegato in due. Questa è una cosa brutta. Poi diarrea. Non te ne dico, Anche a me. Ma vanno nello stomaco, allora è l'addome, è il colon. È un po' di tutto già. Io ieri ero a diarrea, prima la schiena, mal di pancia, mal di denti, certo tutto. E quello faceva la febbre. Chi più ne ha più ne metto. Ma se vuoi buttare la migranza, non posso cantare l'alleluia. E io prima lì il caffè. Bevo caffè al latte, con il caffè del caffè in atto, ho detto tutto, caffè al latte, io caffè non ne prendo, e io non di Coca-Cola bevo. Anche quella c'è la caffè. Ma sai qual è già? Quella delle rospine, capito? Vabbè, fammi anche di quello, vedete come va. Mi ha dimenticato un po'. Anch'io, sai quante volte sono al computer, dico cazzo, a vedere le sere abituato che stavo al computer e fumavo. Poi siamo viziati, ho già tutti i dini, va. Però me lo pulizziamo, vai a Antonio, riprendi. A tu. Ma... naso, dimmi. Lo spirotto, ragazzo. Sono lo spirotto, solo non ti sento. Sei massimo in radio. Stavi dicendo? Ma mi piace un esquic, no. Ma provato, mi fa schifo. Mi fa. No, mi piace di vinigana di butta, no. Niente cioccolato, nulla, mai, nulla. L'unica cosa è caffè del caffeinato. Ma non mi mettono nel letto molto. C'è una chicca arrivata grande, ce ne metto poco, io sto per colorarlo un po', perché bianco non lo bevo, assolutamente. Ho ancora bicio. Anche io sono così. Ma il caffè non ti fa nulla con il latte della divana. Quello che ti può far male per la diabete sarebbe il latte, ma se sei intollerante ai latticini. Allora diciamo che non è una diarrea ripetitiva, già diciamo, venuta ieri, dai. Però siccome ho l'Imodium, me ne sono comprati l'anno scorso, perché avevo questa diarrea ripetitiva, ma 3, 4, 5 volte, anche 6 volte, infatti la farmacista mi ha detto, se ti viene, prendita, infatti così è stato, mi è venuta una cosa, mi è calmato tutto, poi dopo un paio d'ore di nuovo, punto a capo. Però alla fine mi si è bloccata, andavo tranquillamente. Infatti io c'avevo, poi ne ho preso Imodium, perché se continua, là sì, la blocca la diarrea, se la volta solo. Era una scarica, non è diarrea, è una scarica che quando devi prendere Imodium sono, quando sono 3-4 scariche, è una popolata, allora sì. Ehi, ma mi ha pigliato un dolore forte alla pancia, all'addome. Ma dolore, poi sono andato in bagno, diarrea, chi? Ehi, anche a me l'ha fatto, anche a me. Una doccia a Maria. Allora, anche gappa, gappa. Comunque a tutti lasciano qualcosa. Pure io quando fumavo la mattina, specialmente, che vuol dire le cantonate, cioè non manco i... E ma così mi fu di un pezzardo vicino che ne citava, cioè ci voleva un pezzo. Infatti. Poi sto dormendo male già, ma male. Io la mattina di notte ero tutta dolore già, le gambe, so che mi facevo male le gambe, proprio come se mi fossero picchiato. Veramente, va, tutta dolore ero, tutto. Queste gambe che mi facevano male, va, boh, tutte le gambe succedendo a me, no? E poi niente, ho dormito malissimo perché ho girato il TG tutta la notte, non avevo febbre né niente, l'indomani mi salta la febbre. Le gambe mi facevano male le gambe, mi sembrava di essere un cicli. E poi la notte mi è venuto un crampo a polpaccio giù con un secchio, ma... Oh, non si è svegliata mia moglie. Ho tirato nulla. Ah, ma me la si scalda. Devo dire che era proprio... sono profondo già. Quel crampo lì era un bel brutto, mi ha fatto l'anca detta e dopo che mi è passato mi ha lasciato il dolore e secondo come mi muovevo mi riveniva, ma lo sai, se mi sono dovuto passare in alzare e passarmi una pomata per le distorsioni, questa roba qua. A proposito, vabbè, qui c'erano due di reni, no? Già. Proprio qua crepando, questa stamattina mi sono passato una pomata scaduta, ma non metto la farmacista, anche se è scaduta almeno altri 3 mesi te li fa, perciò usala, non li fa niente, e dicevo un po' il dolore me l'ha alleviato, la poca roba. Deve essere proprio un virus, una forma virale, anche l'attarina è così proprio brutto qua, mamma mia. Vabbè. Guarda, io dico questo, non al medico, ma non ci vuoi migliore. E si è fissata già per tutti i costi, io. Te lo so. Un medico, io prendo già 6 pastiglie al giorno, se tu gli aggiungo altre, guai. Vabbè, per il tuo problema si costa già prenderle già. saluto a tutti i bimbi, pure al resto. Anzi, dei vizi soprattutto. Tu non hai ripreso a fumare, no? No. Ma tutti i non mi va più già. Ma tipo, quanto tempo hai smesso? Una volta a 5 anni, quella è stata la più brutta, la più... Nel senso che dopo 5 anni ho ripreso. Sono stato proprio scemo. Non mi dovevo riscrivere al CISO perché come ho finito la Croce Blu dovevo starmene a casa, perché come faccio volontariato io faccio i notturni e sai quello che ti capitano, cioè le chiamate che ti fanno, ma non sai quello che c'è dietro, quindi stai sempre fumando, sei in tensione. Vabbè, è una liquidizia, è una musichetta, te la rifa. Scusa, ma dopo 5 anni fumati la sigaretta non ti fa schifo? Inizio un po' mi dava fastidio, poi ho continuato invece perché è giunta di più. Adesso non le sto cercando, però quando mi siedo al computer mi devo mettere sempre i cracker vicino e sgranocchiare qualche cracker perché a questa sigaretta devo avere qualche cosa. E ti credo, avanti Giuseppe, ripeti. Tu già fumi a Giuseppe. La limona e le sigarette ti fanno spendere un po' di soldi e fanno male. Giuseppe. Cino. Eccomi qua. Prendi anche. Tu sei. Adesso sì. Cosa? Sei più alto. Sentiamo un uomo, della Radio 3. Ma che non si accende la spina per avere battuto la legna. Dove tu fumi, vero? No, metti l'attore, no, si va a provare già. Cosa? Metti l'attore. Anzi, senti l'attore. E te lo metti un po' della spina per. Che non si accende, non parta la testa. No, ci vuole il motore. Tu se vuoi fare la direttiva, ci vuole il motore aspirapolvere. E lo vai gira addosso. Thank you. Freck che bisogna domandare. Freck è per fermarlo un attimino. Dai, io faccio un po' di ascolto e poi me ne vado a letto. Cioè, vedrò un po' blu, perché sto crollando. Andare. Ciao Luca, ciao Giuseppe, ciao Antonio. Correti per me. Faccio un po' di ascolto e poi vi lascio. Ciao. Guarda, buonanotte, io sono al telefono, ragazzi. Sempre. Ciao, buonanotte. Manda il rapporto. Giuseppe.